Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati cari amici radioascoltatori sulle frequenze di Blu Radio Veneto per una ennesima puntata di Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori, circoli padronati delle diocesi di Treviso, Venezia e Padova. È un'occasione, è un contenitore in cui cerchiamo di inserire la realtà appunto degli oratori, le attività, i progetti e seguiamo tutto questo, raccontiamo tutto questo attraverso la voce dei protagonisti che sono sicuramente quelli che frequentano gli oratori, ma sono anche i volontari responsabili di queste realtà targate Noi. Noi Associazione, che proprio in questo ultimo periodo ha fatto un po' di bilancio, proprio perché ricordavamo anche nelle primissime puntate che Noi Associazione il prossimo anno festeggia i 10 anni di attività. Purtroppo questa settimana sono senza la mia compagna di viaggio, che è la Betta. La Betta è sempre impegnata per quanto riguarda questa trasmissione in alcuni contatti e interviste che poi manderemo in onda di settimana in settimana, ma c'è sempre la presenza, la simpatia e la competenza del nostro regista, che salutiamo, Eddie Daici. Fuori di Noi appunto ricorda tutti i nostri la bontà e anche la bellezza di tutte queste realtà oratoriali, ma dobbiamo dare anche qualche numero, perché proprio, dicevo, in qualche settimanale diocesano sono stati pubblicati gli ultimi numeri di questa associazione. Il logo della tessera dell'anno scorso, 2011, dell'anno in corso, era insieme per far squadra, e questa squadra, diciamo, diventa sempre più numerosa, perché si dice appunto che i comitati territoriali del Veneto sono quelli, diciamo, più pesanti a livello di numeri, anche se è un'associazione che si sviluppa in tutto il territorio italiano. Per esempio a Verona 85.000 tesserati, a Treviso 54.000, a Padova 47.000, a Vicenza 33.000. Noi Associazione, ricordo, è presente anche in Lombardia, dove è stato costituito un comitato regionale, in Piemonte, in Valle d'Aosta, in Sicilia, in Campania, in Toscana, in Trentino e anche in Friuli Venezia Giulia. Tutto questo mondo legato a Noi è una squadra composta alla fine in forma, diciamo, complessiva da 357.000 soci tra adulti, ragazzi, giovani, bambini che frequentano l'oratorio e quindi chiedono la tessera nei rispettivi, diciamo, circoli padronati oratori. E quanti sono gli oratori che fanno capo a Noi Associazione? Dopo 10 anni di vita sono 1.300. diffusi appunto, come dicevo prima, in 9 regioni. Noi Associazione è anche un'associazione di promozione sociale, è stata riconosciuta anche dal Ministero dell'Interno con questa capacità proprietà. Cosa vuol dire associazione di promozione sociale? Che non soltanto anima il tempo libero, ma può promuovere a pieno diritto attività culturali, attività, diciamo, sportive, può ricevere il 5 per 1000, quindi un contributo statale per produrre nuove attività, nuovi progetti. E diciamo che questa realtà di Noi Associazione, è bene precisarlo, deriva anche da un lavoro precedente che risale fino a 20-30 anni fa, perché Noi Associazione, lo ricordiamo per tanti magari che si sono messi appena all'ascolto e non sanno di quale realtà stiamo parlando, Noi Associazione è l'evoluzione dell'ex ANSPI, quindi tanti circoli che oggi hanno l'appellativo Noi erano delle realtà ANSPI. Abbiamo anche tantissime, diciamo, assemblee territoriali che si sono svolte in questo ultimo periodo. Abbiamo cercato di intervistare i presidenti territoriali. Nelle scorse puntate, se vi ricordate, abbiamo contattato il presidente di Noi Treviso, Don Bernardo Marconato. Abbiamo contattato anche un circolo della diocesi di Treviso, un responsabile del circolo Noi di Ospedaletto, che ha anche un proprio sito. E nella scorsa settimana, insieme con la Betta, abbiamo sentito la voce e le proposte, le iniziative, l'entusiasmo che sempre caratterizza il presidente di Noi Venezia, Don Fabio Mattiuzzi. Però questa settimana ovviamente noi continuiamo il nostro viaggio all'interno dei circoli e avremo appunto un'intervista ad una delle realtà neonate del territoriale di Padova, quindi completiamo il giro Treviso, Venezia e Padova. Se volete invece mandarci qualche informazione, qualche notizia, qualche bella foto che poi possiamo anche pubblicare nel nostro settimanale o nel sito, diciamo, della radio, potete mandare tutte le vostre informazioni, tutte le vostre belle storie di oratorio all'email fuori di noi @libero.it, oppure mandare un SMS al 320-614-6964. Ripeto, SMS 320-614-6964. Attraverso questo numero di cellulare potete anche essere, diciamo, contattati, perché potete diventare effettivamente protagonisti di una trasmissione di Fuori di Noi. Noi verremo nel vostro oratorio, noi vi contatteremo magari telefonicamente e racconteremo quello che di bello state facendo all'interno della vostra realtà oratoriale. Noi siamo tanto contenti e felici, appunto, che Blu Radio Veneto ci abbia dato la possibilità di continuare per l'ennesimo anno a realizzare questa trasmissione, per raccontare, appunto, la bellezza, diciamo, di questo mondo. E adesso, dopo tante chiacchiere, tante parole, una piccola presentazione, iniziamo come consueto con il primo momento musicale. Alessandra Moroso con Dove sono i colori. È una questione di impazienza momentanea, se non so stare bene dove sono. Bastasse solamente un gesto, un tuo segnale, per ritornare lisci come l'olio. E invece sembra facile da dire poi, è un mese che non so nemmeno come stai. Siamo nella stessa stanza, c'è distanza. Potrei abbracciarti per spaccare questo muro e costruire ancora quel futuro. Di notti insonni fatti al lume di candela, e tu che vuoi imparare a cucinare. E invece resto ferma con le mani in mano a domandarmi con la testa dove sei. Siamo nella stessa stanza e c'è distanza. Dove sono i colori? Le parole che respiri dentro le canzoni, dove sono i segreti? Quelli belli che ti fanno solo immaginare, non ci sei dietro l'angolo di casa ad aspettarmi fuori dal portone e parlare di tutto fino all'alba per poi fare colazione. Dove sono i colori? Quei sorrisi accesi dalle nostre tentazioni, dove sono? Questione di mancanza temporanea, se non so proprio bene cosa voglio. Bastasse solamente un bacio, una carezza, per ritornare uguali come eravamo. Invece sembra mai difficile da fare, e poi fa freddo, io non so nemmeno se mi vuoi più. Siamo nella stessa stanza e c'è distanza. Dove sono i colori? Alessandra Moroso diceva dove sono i colori, sinceramente non lo so, io li avevo qua davanti, ma forse la regia o qualche, appunto, collega di passaggio li ha portati via. No, a parte gli scherzi, i colori sono quelli dei nostri oratori, basta entrare in un ambiente, diciamo, dei nostri circoli e ne vediamo di tutti i colori, ma non sono i colori come il rosso, il verde, il giallo, sono tutte le persone che le frequentano, i ragazzi, i giovani, i sorrisi, le battute, anche le grida tante volte che abbiamo cercato di mandare in onda e non abbiamo mai tolto dalle nostre interviste, perché poi è l'importante è raccontare, far vivere, diciamo, attraverso i microfoni anche i rumori che ci sono all'interno dell'oratorio, perché sono quelli che caratterizzano l'umanità che frequenta, diciamo, questi ambienti. Ma adesso basta continuare a fare, appunto, queste piccole premesse, perché adesso è il momento di l'intervista. Avi! Andiamo nel cuore della trasmissione Fuori di Noi, almeno per questa puntata, perché come vi avevo già anticipato nella primissima parte, abbiamo ai microfoni, abbiamo appunto in contatto telefonico uno dei responsabili di un circolo noi neonato nella diocesi di Padova. Vediamo se è in linea. Ilario, ci sei? Qua, ciao Ilario, allora, grazie ovviamente di aver risposto al nostro invito di poter portare un po' di fare appunto una piccola chiacchierata insieme attraverso i microfoni di Blu Radio Veneto per Fuori di Noi, per raccontare un po' l'esperienza che stai un po' vivendo e che è stata, come dicevo anche è stata raccontata ampiamente in una pagina del settimanale diocesano La Difesa del Popolo. Allora, iniziamo subito con una breve presentazione, appunto dove ti stiamo, diciamo, contattando. Dove abiti, dov'è questo oratorio, tu chi sei e quale ruolo, diciamo, quale nuova magari responsabilità hai assunto per quanto riguarda questo padronato, questo circolo noi in diocesi di Padova. Buongiorno, innanzitutto buongiorno a tutti quanti voi e quelli che ci stanno anche ascoltando. Dunque, io mi chiamo Ilario Zulian e sono il presidente del nuovo centro parrocchiale di Rio. È una piccola frazione del comune di Ponte San Nicolò. Bene. Geograficamente, ci troviamo a 5 km da Padova. È la prima proprio periferia del comune di Padova. Siamo ai confini del comune di Padova. Sì. Ecco, attualmente abbiamo raggiunto come paese, come frazione, i 2200 abitanti. Se pensiamo che è una frazione piccola che ha visto in pochissimo tempo, negli ultimi anni, incrementarsi in modo significativo il numero di abitanti, soprattutto la maggior parte di coloro sono famiglie di giovani coppie, questo ci lascia ben sperare per il futuro. E quindi voi avete fatto una scelta quindi mirata in base appunto anche alle esigenze che il territorio, come mi raccontavi adesso, negli ultimi anni, diciamo, ha proposto. Qua leggo appunto sempre nell'articolo ben pubblicato, ben scritto appunto su Difesa del Popolo, c'è scritto Rio, il nuovo padronato, il fulcro della vita parrocchiale. Allora, racconta un po', avete ristrutturato, da quello che leggo, appunto quello che ho letto, un po' le scuole, mi pare, le scuole parrocchiali, e poi avete costruito, avete edificato oppure avete ampliato, ristrutturato alcuni spazi e li avete dedicati al padronato. È così o il passaggio non è proprio corretto quello che ho detto? Sì, sì, è correttissimo. Voglio completare così l'informazione. Certo. Che siamo fortunatamente una comunità molto viva. Abbiamo molti gruppi attivi nella nostra parrocchia e abbiamo sentito da molto diverso tempo che sentiamo l'esigenza di avere uno spazio, un luogo di incontro, un punto di aggregazione, una sede sociale per i vari gruppi parrocchiali, e dopo varie assemblee e incontri organizzati dalla parrocchia si pensò di recuperare lo stabile, che è una stabile che era in disuso, che era una volta ospitava le scuole elementari della frazione. Ecco, dopo aver superato molte difficoltà burocratiche e finanziarie, oggi possiamo orgogliosamente dire che anche noi, anche la nostra parrocchia, abbiamo un centro parrocchiale. Ti chiedo una cosa, sono un po' curioso. Tu hai parlato appunto di tanti gruppi presenti nella parrocchia. Sì. Quali sono, diciamo, i principali, quelli un po' trainanti, quelli che hanno un po' di storia pesante all'interno della vostra comunità? Funzionano, tra virgolette, il coro famoso nella nostra zona, il coro di Santa Cecilia, che oltre a animare le nostre messe, le nostre feste, è molto richiesto anche fuori dai nostri, chiamiamolo, confini. Sì. Questo è un orgoglio anche da parte nostra. Certo. Poi abbiamo le tradizionali, i gruppi di giovani, giovanissimi. Avete l'Azione Cattolica? Avete l'Azione Cattolica? Azione Cattolica, se ne abbiamo di più di tutto. Ho capito. Ma allora ti chiedo una cosa, allora hai già detto un pochettino che la realizzazione di questo progetto è stato, diciamo, lungo, però appunto siete una realtà molto attiva, molto vivace, quindi immagino che sia stato anche un'occasione di confronto, ma forse anche di conoscenza con tante persone che gravitavano magari all'interno del paese, ma non si erano magari mai impegnati direttamente nell'attività in qualche maniera parrocchiale. Allora ti chiedo, siete stati seguiti poi anche dal territoriale Noi Padova, diciamo, per quanto riguarda la creazione di questo padronato, di questo centro parrocchiale, di questo oratorio Noi, in fin dei conti? Sì, abbiamo avuto subito appena ci siamo nominati come consiglio direttivo, siamo subito rimboccati le maniche e abbiamo cominciato ad affrontare tutta la parte burocratica fatta di carte e permessi vari. Ecco, dobbiamo dire che tutto in questo contesto burocratico c'è stata la fondamentale l'aiuto e l'informazione che ci ha fornito la segreteria di noi associazioni, la sede di Padova, e con il lavoro, con il loro lavoro e la loro disponibilità ci hanno accompagnati mano per mano, come possiamo dire, a risolvere gli adempimenti necessari per avere tutte le carte in regola. E questo è stato fondamentale l'aiuto e tutte le informazioni che ci hanno fornito. Anche perché, dicevo, abbiamo sempre ripetuto attraverso questi microfoni che non è che l'oratorio sia semplicemente una sede per mettere il calcetto balilla o degli ambienti che possono essere utilizzati per i compleanni, ma ormai i tempi sono cambiati, quindi gli spazi, o meglio le persone che poi frequentano questi spazi, hanno esigenze e anche, diciamo, modalità, diciamo, molto precise, molto esigenti, ed è giusto che sia così, anche in termini, credo, di sicurezza e anche di vivacità. Quindi non si può fare lasciare l'improvvisazione o solamente a una forma simpatica di collaborazione. Bisogna rispettare determinate regole per dare a tutti la possibilità di entrare e di stare tranquilli in questi ambienti sereni e anche possibilmente appunto capaci di offrire proposte anche nuove in sintonia con i tempi che cambiano. Ti chiedo una cosa alla fine: voi avete penso anche in queste assemblee riflettuto sul fatto che un oratorio all'interno della comunità, visto che il cammino e la voglia di farlo era, mi pare, partiva, leggevo sempre nell'articolo, partiva da molto tempo addietro, e avete riflettuto un po' sul significato che può avere adesso una realtà così all'interno della comunità? Cioè, voi volete che diventi che cosa questo patronato? Beh, il nostro obiettivo, abbiamo già fissati alcuni obiettivi importantissimi, per esempio la collaborazione con la parrocchia, progetti di aiuto, di formazione per le famiglie, i giovani e le fasce deboli. Poi un punto di incontro delle varie fasce di età che nel centro parrocchiale si devono sempre essere accolti. Poi sarà un veicolo di trasmissione di vari progetti che saranno sviluppati all'interno del centro parrocchiale. E creare un centro parrocchiale che offre tutto questo con una schiera di volontari chiamati a crescere, promuovendo l'integrazione tra le persone, la crescita degli individui, con proposte e stimoli adatti ad ogni fascia di età. Tutto questo sarà fatto con uno spirito rivolto ai valori cristiani. Ecco, il nostro centro parrocchiale, voglio dire, sarà un punto di riferimento e di accoglienza per tutti, finalizzato nell'educazione umana, cristiana e civile per il bene delle persone e del territorio. Sarà la casa naturale di tutti i gruppi e le associazioni che operano all'interno della nostra parrocchia, e dove tutte le attività faranno riferimento al centro parrocchiale con rapporti diversi secondo la natura e finalità di ciascuna aggregazione, per permettere che all'interno dello stesso sia possibile una vitalità nuova e una partecipazione trasversale di sinergie, un occhio alla continuità e una all'innovazione. Beh, posso dire, Ilario, credo che quello che tu hai detto adesso potrebbe essere un manifesto, il manifesto del noi, quindi non voglio aggiungere altro. Volevo dire semplicemente, quindi, e l'hai già detto tu, che l'oratorio, è bene ricordarlo sempre, non è soltanto un ambiente fisico, ma è anche un'occasione di annuncio. Certo. Annuncio anche di una fede, la nostra fede cristiana, che appunto, come hai detto tu, accogliente, aperta, che unisce, la tradizione, però anche con l'innovazione. Quindi basta, non voglio aggiungere altro. Volevo invece un'altra curiosità mia, personale, poi concludiamo, è come comunicherete le vostre iniziative, a tutta, la comunità, il paese? E seconda domanda, quanti volontari, perché vorrei sapere anche quante persone in questo progetto numericamente siete riusciti a coinvolgere? Ecco, dunque, l'informazione la faremo, per rispondere alla prima domanda, la faremo tramite il normale bollettino parrocchiale. Certo. Poi abbiamo intenzione nel futuro di creare un foglietto di informazioni del centro parrocchiale per avere una più ampia informazione di tutte le attività che i gruppi svolgeranno durante l'anno pastorale. Sì. Poi ben vengano altre informazioni. Adesso ci stiamo organizzando anche per dare un'informazione capillare di tutto quello che succederà all'interno del centro parrocchiale. Per quanto riguarda la seconda domanda, i volontari, è già da tempo che abbiamo iniziato una campagna per reclutamento volontari, tra virgolette, sia per la gestione del bar, che è un punto fondamentale del centro parrocchiale, sia per tutte le altre attività di volontariato, penso alle pulizie dei locali, animatori e quant'altro. Ecco, siamo consapevoli che sarà un'impresa per noi non facile trovare persone che siano disposte e abbiano il tempo per dare questo tipo di volontariato, ma siamo fiduciosi che alla fine riusciremo a coinvolgere in qualche maniera persone di ogni età. Benissimo, allora grazie Ilario e grazie appunto a questa nuova realtà, il padronato che mi pare sia dedicato a San Carlo Borromeo, il padronato appunto della realtà di Rio. Ti ringraziamo per questo contatto, per questa diciamo puntata dedicata appunto alla tua realtà, e ti facciamo gli auguri di buon lavoro e buon diciamo cammino per quanto riguarda la vostra realtà, il vostro centro parrocchiale. Grazie ancora Ilario per avermi ospitato e grazie a voi. Grazie. Buona giornata, arrivederci. Grazie ancora, e adesso passiamo all'ultimo brano musicale. Vi facciamo ascoltare appunto un gruppo che da qualche tempo appunto continua ancora a sfornare grandi canzoni, Depeche Mode con Dream On. As your bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Depeche Mode che ci cantavano Dream On, cioè sogna, noi sogniamo e continueremo a sognare anche le prossime settimane grazie appunto a tutti questi contatti, interviste, collaborazioni che cercheremo appunto di presentare attraverso i microfoni di Fuori di Noi, trasmissione appunto che ogni settimana va in onda al sabato alle ore 14 e domenica alle ore 12:30, sempre e solamente su Blu Radio Veneto, l'emittente interdiocesana, appunto in collaborazione sempre questa trasmissione con i comitati territoriali di Noi Padova, Noi Treviso e Noi Venezia. Numeri appunto a cui mandare informazioni, domande, richieste sono sempre il cellulare 320 614 6964 e l'email fuoridinoi@libero.it, a cui speriamo appunto invierete qualche bella fotografia poi da pubblicare nei vari settimanali diocesani o nel sito della radio Blu Radio Veneto. Cosa dire ancora? Un saluto appunto alla regia simpatica, scherzosa, ma sempre affidabilissima, se no altrimenti noi non riusciremo a fare questo programma, di Edi Daici. Un saluto diciamo per, come posso dire, in contumace alla nostra Elisabetta che sta appunto lavorando per noi, per Fuori di Noi, e risentiremo nelle prossime settimane. Cosa aggiungere? Buona settimana a tutti e buon lavoro nei vari oratori. Ciao a tutti! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.